Radio 24 presenta Il sabato del villaggio di Marta Cagnola. Buongiorno, ci siamo, sono le 15 in punto al sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale, questa la nostra guida, come sempre, per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma i nostri liberi consigli per il fine settimana. Nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube, insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. I numeri per contattarci per i vostri SMS 349-238-6666, va benissimo anche per i WhatsApp 349-238-6666. C'è anche il mio account di Twitter, chiocciola Marta Cagnola, gli hashtag cancelletto ISDV, ma andrà bene anche cancelletto RadioTube. E ora è il momento di scoprire quali saranno i temi della prima ora che passeremo insieme. Il filo conduttore di questa puntata, beh, primo sabato d'estate, primi tormentoni d'estate. Scopriremo il tormentone in fatto di ristoranti, come sempre col nostro gastronauta. Nella prima ora anche lo spazio della tecnologia con Enrico Pagliarini. Non vi dico ancora di cosa parleremo, ma è veramente l'argomento del momento. Le uscite al cinema anche in questo ultimo weekend di giugno, ma prima, a proposito di tormentoni, musica. Pezzo ha veramente un sacco di anni, eppure appena parte Vamos a la Playa dei Righeira c'è subito sapore d'estate. Perché? Perché è stato il tormentone di un'estate di tanti anni fa, credo 83, non lo so, non sono sicura. Lo chiediamo subito al nostro super esperto, un amico del sabato del villaggio che sono contenta è tornato a trovarci, Gianni Sibilla. Ciao Gianni. Ciao a tutti. Gianni Sibilla da Rock All, ma anche direttore del Master di Comunicazione Musicale della Cattolica di Milano. Ho detto giusto? Master di Comunicazione Musicale dell'Università Cattolica di Milano. Tra l'altro stanno iniziando adesso le selezioni, vero? Quindi per iniziare a reclutare gli studenti dell'anno prossimo. Bene. Quindi, professor Sibilla. Gianni. Va bene. Nasce un po' da qui il concetto di tormentone estivo. Sì, i Righeira nell'83, l'anno era giusto, sono stati considerati un po' il primo tormentone musicale. In realtà la parola esisteva già prima, però quella canzone, quel ritornello, quella struttura appiccicosa letteralmente, è stato considerato il primo tormentone musicale. Hai detto struttura appiccicosa, è un po' la caratteristica del tormentone. La ripetizione, la cosa che, come dicono gli americani, you cannot unhear that. Una volta che lo senti, sei fregato. Non te lo levi più di dosso. Sì, ho sentito anche parlare di earworm, il vermetto nell'orecchio, esatto. No? Non se ne va più. Da lì si può fare anche una sorta di storia dei tormentoni. Ce ne sono stati tanti poi che ci hanno... Tantissimi. Poi a noi giornalisti ogni anno viene chiesto il pezzo sul tormentone, qual è il tormentone dell'estate. Quindi c'è te lo chiederò. C'è una, no? C'è ti una preoccupare che te lo sto per chiedere. No, più avanti te lo chiedo. Però ci hanno accompagnato appunto sempre. Sì, ogni estate al suo tormentone, anche se poi negli ultimi anni lo strumento, il meccanismo in cui si determina un tormentone è molto cambiato. Una volta erano le radio, adesso ovviamente il panorama è un po' diverso, per cui social, rete, YouTube, eccetera, determinano il tormentone in maniera un po' più complessa rispetto ad una volta. È un po' più difficile oggi dire qual è il tormentone. Non c'è più il vincitore del Festival Bar. Esatto, perché poi il Festival Bar era l'altro lato delle radio, per cui... Era lì che veniva determinato tormentone. Negli anni 80-90 c'era un tormentone per l'estate. Questi anni è un po' più frammentata la cosa, diciamo. Storia dei tormentoni, cos'altro ti viene in mente dopo i Righeira per arrivare ai giorni nostri? I tormentoni latini. Ah, i tormentoni latini. Ecco, perché i Righeira torinesi, però... tutti erano convinti che fossero con questo cognome finto di questi due finti fratelli che cantavano peraltro di spiagge radioattive, di uno scenario apocalittico, quindi il tema era tutto fuorché leggero, sì, a parte infatti, quella canzone, il ritornello infatti. Molto facile, era una cosa abbastanza ironica che molti non presero come ironica, però. Allora, tormentoni latini, appunto, non solo fatti da latini, che ci hanno accompagnato a lunghissimo. Sottogenere del tormentone molto praticato in Italia, pensiamo a Vamos a Bailar, per dirne uno. Paola Chiara, vedi, me la ricordo. Ed è una cosa molto amata dagli italiani, perché spesso e volentieri i tormentoni latini sono tormentoni solo da noi e non sono tormentoni in Spagna o nei paesi latini. Ma davvero? Cioè, una canzone che noi siamo convinti che sia, allora, o non è spagnola o non è tormentone altrove. Certo, Alvaro Soler, per dire uno dei nomi grossi degli ultimi due anni, ha avuto successo in Italia, in Polonia e in Svizzera. In Spagna non è mai arrivato numero uno. Allora la Spagna. Spiegami, Alvaro Soler è spagnolo, è catalano, sì, credo, credo, sì, sì, catalano. Non è famoso in Spagna? Il successo di El Mismo Sol è iniziato dall'Italia. Beh, straordinario, è talmente famoso in Italia poi che quest'anno sarà giudice di X-Factor. È ormai residente cittadino onorario dell'Italia, beh, onorario tra virgolette, però. Diciamo che è uno dei tanti che hanno trovato l'America in Italia. Assolutamente. Tradizione, sì, assolutamente italiana. Assolutamente. Poi in Spagna è arrivato al numero 3, ma con una versione riedita di El Mismo Sol con Jennifer Lopez, che è un'altra non di quelle. Non ci posso credere, per, sì, farlo diventare famoso... Perché che poi invece è quello che spesso succede per lanciare dei cantanti italiani, esatto, all'estero. Mi viene in mente il caso di Ariana Grande, sì, che è stata affiancata credo a Fedez l'anno, esatto, scorso nella versione italiana, per far imporre Ariana Grande. Invece per imporre Alvaro Soler in Spagna, la Jennifer Lopez ha fiutato l'affare, perché stupida non è, e ha provato a fare il duetto, ha reinciso la canzone con Alvaro Soler e quella versione è stata quella che ha avuto poi successo in Spagna. Alvaro Soler che quest'anno sarà a X Factor, tu come lo vedi? Ma continuerà il tormentone? Beh, Sofia sta già andando molto bene, ha fatto tipo 40 milioni di visualizzazioni su YouTube in due mesi. È partito molto in anticipo rispetto alla stagione del tormentone. Vero, però lo stavano posizionando per lanciarlo X Factor. X Factor, sai, lui è un bravo ragazzo, è carino e simpatico. È anche vero che fare il giudice a 25 anni e dover esprimere dei giudizi su magari cantanti che hanno più storie dietro le spalle, ah, certo, stride un pochettino. Però quelli di Sky sanno fare molto bene il loro mestiere, quindi se l'hanno scelto vuol dire che funzionerà in televisione, o almeno così si spera. E così ho capito perché Sofia è uscito così presto, cioè è uscito prima degli altri, perché così si parlava di lui e poi si poteva lanciare. Ah, ma vedi, sono ingenua, io non l'avevo capito, era per lanciare la sua prestazione a X Factor. Che secondo te, facciamo un po' sfera di cristallo, che cosa si ascolterà quest'estate? Sofia tantissimo, sì, l'inno dell'Euro 2016, nel senso di europei 2016, sì, già non lo sopporto più, perché poi lì è come Maracanã quando c'è la nostra, diventa proprio incredibile. E secondo te cosa si ascolterà quest'estate? Beh, l'altra canzone che si sta ascoltando a nastro e in maniera insomma, e che l'altra canzone da cui è impossibile scappare è Fedez e J-Ax. Allora forse ce l'abbiamo per ripassarla, per chi ancora non l'avesse sentita. Io vi chiedo pardon, ma non seguo il bon ton, è che a cena devo avere sempre in mano un iPhone. Il cane di Chiara Ferragni al Papillon di Vuitton ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John. Salvini sul suo blog ha scritto un post, dice che se il macino all'oro in bocca si tratta di un rom. Sono un malato del risparmio, per questo faccio un po' di terapia di Groupon. Poi lo sai, non c'è un senso questo tempo che non dà il giusto peso, quello che viviamo, ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei ma non posso, e ancora un'altra estate arriverà. Anche perché poi c'è la pubblicità del gelato e la sentiamo proprio. Quello è un altro elemento che aggiunge carne al fuoco, anzi determina molto, esattamente, certo, come negli anni, che ne so, avere la canzone a Striscia la notizia nello stacchetto determinava. O le pubblicità dei telefonini adesso, incredibile. C'è Paolo che via WhatsApp ci aggiunge un altro tassello, che è quello dei villaggi turistici. Tormentone, capolavoro da supermercato per Orecchio Nazional Popolare, che poi tutto sommato va bene anche l'Orecchio Nazional Popolare, perché secondo me dice tanto di noi. Dura 2 mesi e lo si approfondisce nei villaggi. Vero. In effetti anche questo è un bel mondo. È un bel mondo. Allora, J-Ax e Fedez, coppia in affari e in arte, ma hanno lanciato un personaggio nuovo. Un altro candidato Tormentone che andiamo a comandare, Rovazzi. Allora, io adesso vi racconto un retroscena. Presto avremo a Radio 24 questo fenomeno. Io, così l'ho detto a qualche collega, si è scatenato l'entusiasmo a Radio 24, perché Rovazzi è veramente uno dei personaggi dell'estate. Ha fatto 30 milioni di visualizzazioni su YouTube. Ed è proprio quello che tu dicevi prima, cioè un tempo la radio, adesso la parte rete. Da lì, quello è partito assolutamente da lì, tanto che poi ha preso il disco d'oro soltanto sullo streaming, e credo sia stato il primo ad avere un riconoscimento di questo genere senza vendere copie fisiche o digitali. Allora, sempre Paolo, la media degli ascolti è estrapolata dai passaggi SIAE, non è detto che però venga ascoltato. Adesso vero, c'è molta polemica, c'è anche molta sulla polemica, certificazione, sì, è una materia adesso controversa, è stato comunicato così, diciamo. E adesso anche gli ascolti di streaming sono monitorati, perché bisogna capire quanto è vero, quanto anche questo è uno dei tormentoni dell'informazione. Esatto. Abbiamo citato J-Ax e Fedez, abbiamo citato Rovazzi, so che ci sono anche dei francesi, perché ultimamente sono arrivati belgi o francesi la musica francofona. Assolutamente, altra sottocategoria del tormentone, il tormentone francofono. Vabbè, dopo Stromae ha ripreso quota, c'è sempre stato, ma sì, dopo Stromae ha ripreso quota. Beh, Stromae è un artista di grandissima qualità, che è capace di mettere assieme canzoni molto belle, anche interessanti e dense, con un'orecchiabilità totale, cosa che invece spesso i tormentoni non fanno, perché i tormentoni sono pura orecchiabilità, spesso con un contenuti, come dire, un po' leggerini. Ci sta, per carità di Dio, però quello so. Però appunto Stromae è riuscito a imporre la canzone in lingua francese, che poi appunto abbiamo ascoltato tantissimo in questi mesi e in questi ultimi 2 anni, così in maniera molto massiccia. Direi forse anche Justin Timberlake, perché no? Beh, quella è un'altra canzone, quella abbiamo è una canzone di una bellezza, ecco, ragazzi. Ecco, diciamo che Justin Timberlake ha fatto un pezzone proprio, quello che noi chiamiamo il pezzone, ma forse anche Justin Timberlake potrebbe essere nei tormentoni dell'estate. Sì, vedendo i passaggi radiofonici, ieri guardavo la classifica di passaggi di questa settimana, è al secondo posto, se ben mi ricordo. Poi è chiaro che, come dicevo prima, non è più soltanto quello che determina il tormentone, però è una canzone perfetta, è orecchiabile, è bella, è ballabile, non è banale, insomma, gran canzone, pezzone proprio. Sono d'accordo. E poi vedo molto bene nelle classifiche quelli che sono usciti dai talent quest'anno, anche loro. Il professore allarga le braccia, guarda il cielo. No, io sono un grande ammiratore di talent e grande consumatore di talent, come sai, però avendo quella corazzata alle spalle, è giusto che sia così, no? I talent servono per dare visibilità e quindi dare una bella spinta e far partire la carriera da una bella rampa. Vedremo se quest'anno sarà Elodie o il Big... Ne manca qualcuno però, di quelli che sono usciti dai talent. Il vincitore di X Factor è sparito. Il vincitore di X Factor? Ebbene sì, non l'abbiamo ancora... L'abbiamo recensito su Rocola a Roma l'altro giorno, perché è aperto il concerto di Lucas Graham. Ma Josada ancora missing in action. Sembrava anche un po' arrabbiatello da cosa c'è. No, c'è uno scoop. Ti è sembrato un po' arrabbiato? No, non l'ho visto io, ma insomma, il nostro collaboratore a Roma ha riportato un paio di frasi che sembrava un po' inquieto. Starà tamburellando le dita in attesa dell'uscita del famigerato disco di inediti, che invece l'anno scorso con Fragola era uscito. Era uscito subito, certo. Pietro scrive: inno europei, tamarrata pazzesca, vero? Ma c'è un limite per gli inni. Pietro, temo di no, ma devo dire che è una tamarrata

se vuoi ti do un posto che non è sul mare. Dai, dammi un ultimo posto, perfetto. Ti do il posto da Romano a Viareggio. Ecco, non hai i piedi nell'acqua perché è un po' nel centro di Viareggio, ma sei sicuro di mangiare non solo le telline, ma un po' tutto in maniera veramente straordinaria. È un ristorante di pesce che io credo che ce ne siano pochi. Se invece vuoi fare una fuga, te l'ho già detto un paio di settimane fa, ti consiglio di andare al Clandestino, e quindi al Clandestino di cui abbiamo parlato, che è a Porto Novo sull'Adriatico. Lì puoi mangiare cose particolari, ma faremo anche una serata a suono di musica. Fantastico, grazie Davide per essere stato con noi anche questo sabato. Io mi sono preso un sacco di appunti, ho un foglio intero di appunti. Comunque, per tutti coloro che magari fossero in macchina, non fossero riusciti a segnare tutto, c'è ovviamente il nostro podcast sul sito radio24.it. Grazie al nostro gastronauta Davide, al prossimo sabato. Buona domenica a tutti. A presto, grazie Davide, noi ci ritroviamo tra poco dopo una brevissima pausa. Il sabato del villaggio. Ho un problema nella testa, funziona a metà. Ogni tanto parte un suono che fa. E ogni volta che mi parte si fa imbarazzante, come quella volta che stavo al ristorante. Posso offrirti da bere? Lei dice va bene, solo che quando le passo il bicchiere è una malattia, è pericolosa. Statemi lontano, è contagiosa. Non so se sono pazzo o sono un genio. Faccio i selfie mossi alla web e Kenyo. Non mi fumo canne, sono anche stemio. Io non faccio brutto, ma contrattore in tangenziale. Andiamo a comandare. Scatto foto col mio cane. Andiamo a comandare. In ciabatte nel locale. Andiamo a comandare. Sfaccio acqua minerale. Andiamo a comandare. E questo è Andiamo a comandare, uno dei tormentoni dell'estate. Ne abbiamo parlato nel primo blocco di questo sabato del villaggio, dedicato un po' appunto ai primi tormentoni d'estate. Fabio Rovazzi, che è diventato famosissimo solo grazie agli streaming. Ne abbiamo parlato con Gianni Sibilla all'inizio del sabato del villaggio, ma siccome al 349-238-6666 ci stanno arrivando i vostri sms e whatsapp sui tormentoni, c'è proprio Doriana che ci scriveva: ripenso a noi genitori in attesa, con il naso infilato tra le sbarre del cancello, e andiamo a comandare a palla in oratorio, e più di 200 ragazzi che ballano. Che carini i genitori che guardano i ragazzi con il naso infilato tra le sbarre del cancello e li vedono ballare tutti. Questa Andiamo a comandare è davvero amatissima dai ragazzi, diventata famosa solo grazie agli streaming. E davvero Fabio Rovazzi sarà presto, prestissimo a Radio 24. Quindi streaming, tecnologia, evochiamo la presenza di Enrico Pagliarini. Enrico, ci sei? Buongiorno, sì, siamo qua. Eccolo, cioè, qua. Sono io, sono. Quindi, pensavo fosse un... Cioè sì, allora siamo plurale io e tutti un auto plurale maiestà. Ah, ecco, i tuoi aggeggi elettronici. Ti ho lanciato il tema dei tormentoni. Secondo te qual è uno dei tormentoni in tecnologia in questo periodo? Ah, è sempre quello degli smartphone. Anche se devo dire che l'attenzione, cioè lo smartphone è diventato una cosa un po' meno sexy rispetto a qualche mese o anno fa, e anche perché il mercato non offre grandissime novità, cioè gli smartphone sono più o meno sempre uguali. Mm-hmm. Ecco, uno dei tormentoni è che cosa ci riserverà l'iPhone 7 che uscirà a ottobre. Sapete che pochi si domandano che come sarà il nuovo Samsung o il nuovo Huawei, eccetera, cioè non gliene frega quasi niente a nessuno quando esce, un po' di notizie vengono lette. Ma invece, ecco, uno dei tormentoni, e su questo non cambia nulla, è come sarà il nuovo iPhone 7. Sì, ne scrivono sicuramente di più i giornali, sì, sì. Almeno. Sono... Sì. C'è molta attenzione, però devo dire che poi da quello che mi dicono le persone che si occupano del web, dell'online, i pezzi che parlano di iPhone sono dei tormentoni, vengono ancora molto letti. Però a proposito di poche novità, beh, pare che non ci saranno grandissime novità, però dobbiamo aspettare settembre o ottobre, grosso modo. Però oggi parliamo di un tormentone che è diventata anche una professione. Mm-hmm. ne hanno scritto due colleghi che si occupano di tecnologia e che si sono dovuti occupare anche di questo fenomeno che si chiama YouTuber, che è diventata, dicevo, una professione, e infatti questo libro di cui vogliamo parlare, ma soprattutto dal quale vogliamo trarre un po' di consigli, di suggerimenti, si chiama Professione YouTuber. Allora, saluto Paolo Crespi, che assieme a Mark Perna ha scritto per Apogeo questa professione YouTuber. Ciao Paolo. Buongiorno Paolo Crespi, eccolo qua, eccolo qua. Allora Paolo, prima domanda, che cosa sono questi YouTuber? Beh, allora, che cosa sono gli YouTuber? Sono un po' sotto gli occhi di tutti, sono spesso i nostri figli o i nostri fratelli minori, cioè tutti quei ragazzi che, avendo, diciamo, grande familiarità con i mezzi di comunicazione digitali, essendo spesso dei nativi digitali, hanno cominciato un po' per scherzo, un po' per passione, un po' per emulazione, a produrre video, magari dalla loro stanzetta, e a condividerli online su YouTube, che ormai, insomma, da 10 anni è la piattaforma di condivisione video per eccellenza. Ci sono YouTuber di tutti i tipi. Io confesso di essere molto molto appassionata a tanti YouTuber. Io guardo quelli di trucco, quelli di cucina, quelli semplicemente che chiacchierano. Ci sono tanti sottogeneri in questa grande categoria degli YouTuber, Paolo? Sì, ce ne sono tantissimi, e come noi diciamo, insomma, nel nostro libro, che poi è una sorta di manuale, il sottotitolo del libro che ho scritto con Mark Perna, è tutto quello che devi sapere per lanciare un canale di successo. E noi non ci stanchiamo di ripetere che qualsiasi contenuto può identificare una nicchia e quindi trovare il suo pubblico su YouTube. Tuttavia i contenuti musicali sono assolutamente quelli che generano più visualizzazioni, seguiti dal gaming, dal beauty che tu ricordavi, anche dal comedy entertainment, però anche i tutorial. Prima Enrico citava il tema dell'iPhone, ecco, sono moltissimi gli YouTuber che si accostano alla piattaforma provando a mettere in scena dei veri e propri tutorial in cui appunto svelano agli altri utenti meno esperti i segreti di un nuovo modello di telefonino. Sì, esatto, in effetti questo è proprio anche una versione di YouTuber utile, perché uno ha un problema e, non dico nel 100% dei casi, ma in un buon 80-90% dei casi, su YouTube... C'è una risposta quasi per tutto. Esatto, sì. Sì, a me è capitato ad esempio di dover sostituire le batterie del telecomando di Sky ed ero convinta di essere l'unica scema a non saperlo fare. Ho aperto YouTube e c'è una serie di infinita di tutorial su come si fa ad aprire il telecomando, a cambiare le batterie. Non mi sono sentita sola, perché ho capito che non ero l'unica che non era in grado di farlo. Ho capito che quando hai un dubbio su come si fa una cosa è facile trovarlo su YouTube. Prima si googlava e basta, adesso su YouTube si trova il video che ti spiega, certo, esattamente come si fa. Prima c'erano solo le chat, i forum, non so, Yahoo Answers, e adesso ci sono i filmati su YouTube. Beh, che ti danno... Diciamo una cosa, allora, i YouTuber sono le star di YouTube e quindi necessariamente sono poche, un po' come nella TV tradizionale. Il vero vantaggio però rispetto al mondo della TV tradizionale o dei media in generale è che lì non c'è nessuno che ti sceglie, sono solo gli spettatori, cioè gli utenti che ti scelgono, quindi diciamo che tutti potenzialmente possono essere YouTuber. Io non sono un grandissimo appassionato di nessuno dei generi che voi avete citato, però ad esempio c'è una famosa azienda che fa frullatori che ha un personaggio di cui non penso sia nemmeno pubblicato il nome, che è diventato di fatto uno YouTuber perché frulla di tutto, giusto per far vedere che... Adesso vado a cercare il frullatore, fantastico. Cioè, la domanda è, si frullerà questo? Ma frullano di tutto, frullano anche dei telefoni, per far vedere e dimostrare che i loro frullatori sono veramente potenti. E in questo modo, oltre a farsi pubblicità e a dimostrare che i loro frullatori funzionano, sono diventati anche una sorta di celebrità su internet. Poi Enrico, twittaci un link perché così lo troviamo. Sì, il frullatore pazzo. Divertentissimo. Però effettivamente tutti possono diventare, che ne Enrico, so, uno che fa divani. Prego. Hai posto l'accento su un fatto molto importante, cioè che le aziende e la comunicazione in generale si sono accorti che questa piattaforma è interessante. innanzitutto per i contenuti premium che veicola, cioè i video sono oggi il contenuto più virale in assoluto che c'è sul web, più dei post, più dei tweet, più di qualunque altra cosa, e sono sempre più centrali nella comunicazione, lo saranno sempre di più in seguito, quindi chi oggi riesce a capitalizzare, anche se è molto giovane, un'esperienza sui video, quindi impara una serie di tecniche che sono di ripresa, di montaggio, di comunicazione, di recitazione, perché non dimentichiamo che lo youtuber molto spesso ci mette la faccia, insomma. Certo. Queste persone potranno diciamo essere delle risorse importanti anche per nel loro futuro lavoro, che magari non è quello di essere una star di YouTube, perché come avete ricordato pochi riescono a sfondare solo con questo mezzo, ma potrebbero diventare delle risorse preziose in vari ambiti della, certo, della produzione, del commercio, sì, della distribuzione. Scommetto che ci sono in tanti adesso che chiedono se c'è una ricetta per diventare youtuber. Immagino che voi vi siate posti il problema di spiegare un po' come si può diventare, se non youtuber, ma di noi successo. Abbiamo provato a enucleare dei consigli, abbiamo, ecco, anche portato vari case history. Ma diciamo, se posso dirvene qualcuno così, ve lo dico, cioè, allora, la prima cosa, per farti strada tra i milioni di video presenti su YouTube, prima di partire, è proprio quella di elaborare un progetto per il canale che si vuole costruire, puntando su un'attitudine particolare, su una passione, su un'abilità, su un modo di raccontare che in qualche modo ti rende unico e riconoscibile. E da questo punto di vista è indifferente se si sceglie un argomento del quale molti stanno già parlando. L'importante è usare la creatività per riuscire a trovare un modo personale, un proprio marchio di fabbrica. Poi naturalmente il look, la veste grafica del canale ha un peso molto importante, così come anche il nome, che deve essere facile da ricordare e accattivante. Detto questo, la costanza nella pubblicazione dei video è fondamentale, perché se uno dà un'abitudine ai propri fan, sanno che, non so, ogni mercoledì alle 12 c'è un nuovo contenuto, ecco che i tuoi contributi verranno trovati più facilmente, e se dai un appuntamento e poi sei capace di rispettarlo. Beh sì, perché sennò ci rimangono malissimo i fan se non arrivano questi video. Io sì, lo dico io per prima. Dire, una cosa anche un po' tecnica, l'algoritmo di YouTube premia la numerosità dei contenuti e anche il tempo di visualizzazione, quindi la somma dei minuti che gli utenti passano a guardarli. Mm. Quindi per avere un largo seguito è importantissimo costruirsi una community alimentandola con i commenti e le interazioni con i fan già dall'istante successivo alla pubblicazione del primo video. Poi una cosa ancora più tecnica sono i metadati, che sono fondamentali nella gestione del canale, perché per farti trovare, cliccare, come succede anche per i blog, devi ottimizzare i titoli per la ricerca su Google, indicizzare bene i contenuti, curando in maniera proprio scientifica, sistematica, i tag, le descrizioni. Sì, e poi ad un certo cosa, punto, prego, finisci Paolo, poi ti faccio una domanda. Sì, un'altra cosa a cui spesso non si pensa, le collaborazioni con gli altri youtuber. Se si riesce per esempio a agganciare qualcuno un po' più famoso, comunque un po' più esperto di te, riesci a coinvolgerlo in un tuo progetto cercando magari di rubargli qualche segreto del mestiere, ecco che spesso le tue quotazioni schizzano in alto, perché ti fai vedere insieme a qualcuno di già visto, già popolare, e quindi in qualche modo anche tu ne benefici. Sì, sì. Facciamo una brevissima pausa e poi l'ultima domanda. Allora, una brevissima pausa per il traffico e poi saremo ancora insieme per parlare di youtuber. A tra pochissimo. Il sabato del villaggio. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. Feel that hot blood in my body when it drops. Ooh. Stop the Feeling, l'abbiamo detto che è uno dei pezzi assolutamente dell'estate, forse quello che unisce di più l'essere popolare all'essere un gran pezzo, come diciamo noi, un pezzone, questo Can't Stop the Feeling di cui abbiamo parlato con Gianni Sibilla. Con Enrico Pagliarini e con il nostro ospite Paolo Crespi stiamo parlando di youtuber, perché Paolo Crespi è uno degli autori di professione youtuber, edito da Apogeo. Enrico, avevi una domanda in canna per Paolo Crespi? Sì, l'ultima domanda, la domanda delle domande, visto il titolo che avete dato a questo libro, ma quanti poi in realtà possono diventare professionisti di youtuber, cioè nel senso che possono guadagnare soldi con youtuber, con YouTube? Allora, due tipi di risposta. Allora, ci sono le star che guadagnano milioni di euro, che sono, si contano sulle dita di due mani nel mondo probabilmente. Però cominciare a guadagnare, a trarre profitto da questa attività, basta semplicemente mettersi di butto buono, e il primo passo da compiere è iscriversi al partner program di YouTube e partecipare così a un sistema di monetizzazione dei video della piattaforma di Google, che è molto democratico perché distribuisce gli annunci pubblicitari premiando soprattutto i contenuti originali e fra questi naturalmente quelli più visti. Per dare un parametro abbastanza indicativo, quando si raggiunge 1 milione di visualizzazione si portano a casa circa 1.000 euro di introiti. Naturalmente, come abbiamo detto, le star di YouTube possono guadagnare molto di più in quanto sono richieste anche direttamente dal mercato pubblicitario. E poi guadagnano anche grazie all'indotto, che sono tutte le sponsorizzazioni, le attività parallele, eventi, certo, le magliette, i cappellini, film, libri. Quanti youtuber in questo momento stanno addirittura scalando le classifiche con un libro che racconta semplicemente la loro esperienza. Quindi magari, ecco, non si diventa milionari, soprattutto in Italia, dove abbiamo una platea più piccola, ecco, rispetto al mercato anglosassone, perché i nostri youtuber purtroppo la maggior parte parla italiano, qualcuno ha cominciato magari ad aprire un secondo canale in inglese, però si può costruire un mestiere, un onesto mestiere per il futuro. Perché e comunque io... sviluppare delle abilità che ti serviranno sempre. Certo, perché io e Enrico Pagliarini non abbiamo ancora aperto i nostri canali, ma vedrete quando io e Enrico Pagliarini diventeremo youtuber, spacchiamo. Mi raccomando, Enrico. Mandatemi la richiesta di iscrizione al vostro canale. Certo. Sì, certo. Da oggi inizio a fare il business plan. Esatto, cominciamo a fare il business plan. Grazie a Paolo Crespi, professione youtuber per Apogeo, l'ha scritto insieme a Mark Perna. Grazie per essere stato con noi, Paolo. Ciao Paolo. Grazie Marta, grazie Enrico per l'ospitalità e un saluto a tutti gli ascoltatori. Alla prossima, grazie mille Paolo. Enrico, abbiamo ancora un pochino di tempo, un minuto e mezzo, hai un'app per noi? Allora, questa settimana volevo consigliare un servizio utile per uno dei problemi che spesso incontriamo nella vita, cioè la raccolta di soldi per fare un regalo, cioè le famose collette. Ah, certo. Allora, c'è un servizio che non ha app, ma è mobile anche, cioè ha la versione mobile del sito, che si chiama GrowWish. Quindi è abbastanza semplice, Grow Wish, wish come desiderio in inglese, e in questo modo questa piattaforma gestisce sia per i negozianti, perché ad esempio possiamo anche pensare ad una lista a nozze o comunque una lista presso un negozio, sia per le comunità delle persone che vogliono raccogliere delle collette, gestisce tutto, quindi si evitano tutti i classici problemi della raccolta delle collette, cioè uno che si dimentica, l'altro che fa confusione, insomma sappiamo benissimo come funziona. GrowWish cerca di risolvere tutto questo, naturalmente si trattiene una piccolissima percentuale, però se pensiamo che ogni tanto si devono raccogliere anche alcune migliaia di euro, magari una piccola percentuale non pesa tantissimo. E vedo anche che è una startup italiana e questa cosa mi fa molto molto piacere. GrowWish.com, sta crescendo molto bene. Grazie Enrico Pagliarini. Bene, prossimo appuntamento col Sabato del Villaggio, ti rivolgiamo. Ciao, ancora ciao Enrico, e adesso parliamo di cinema. Ciao a voi spettatori, buona festa della mamma. Lo sai, a colazione niente più schifezze. Le ha portate papà. Lui manda anche a scuola senza mutande. Sandy è una mamma single. Ha un ex che si è appena risposato con una 12enne. Twittami se vuoi notizie dei ragazzi. Ha detto così, twittami. Che diceva prima di quella bambina e del suo ex marito? Capirò meglio la sua età quando l'acne le sarà sparito. Radley è un super mammo. Ci puoi pensare tu alla spesa? Che ci serve? Succo di frutta, uova. Uova? E gli assorbenti. Cosa serve? Assorbenti. Scrivo solo A, me lo ricordo. Controllo prezzo per gli assorbenti biologici. Non serve. Figlia? Due, veramente. Stessa barca, due maschi. È stato un piacere, Sandy, con due figli maschi. E questo è un frammento di uno dei film non tantissimi che escono questo fine settimana, stagione calda, quindi in Italia diminuiscono i film in uscita. Questo è Mother's Day, commedia soft, ma vale la pena andarla a vedere? Lo chiediamo al nostro esperto Franco D'Assisti. Ciao Franco. Ciao Marta, ciao a tutti i tuoi ascoltatori. Sì, Mother's Day, che arriva leggermente in ritardo rispetto alla data italiana, almeno della festa della mamma, che è sempre intorno all'8 maggio. Ecco, qui invece arriviamo quasi a luglio, ma insomma il senso non cambia, sono tutte belle le mamme del mondo e soprattutto di mamma ce n'è una sola. Questo sembra voler dire Gary Marshall, regista ormai attempato che ha firmato alcune fra le commedie soft che sono rimaste poi nella storia del cinema, pensiamo su tutte ovviamente a Pretty Woman, e di quel film recupera l'attrice protagonista, il sorriso smagliante, le gambe levigate di Julia Roberts. Qui in un bel ruolo di donna in carriera inaridita proprio da questa sua carriera spinta, che appunto ritrova la figlia. Ma è una delle tante storie, perché questo è un film corale, c'è Jennifer Aniston, divorziata indomita, nel senso che non si arrende al fatto che i figli debbano stare con la nuova compagna di lei marito, che è una ragazza quasi una pin-up, diciamo, molto giovane. Insomma, c'è anche quindi tutta la riflessione fra un'età che sfugge e il fiorire invece della bellezza di una 27enne. C'è Kate Hudson, anche c'è Jason Sudeikis, tante commedie, tanti film comici, ma qui il volto giusto per dare il senso della paternità a un film che parla di maternità. Insomma, è una commedia, hai detto giustamente tu, una commedia soft, una commedia che non lascia il segno, non lascia tracce, già vista milioni di volte, che però si guarda sempre con un sorriso sul volto, e forse di questi tempi non è neanche poco. Invece Franco, cosa c'è dietro a queste 5 tequila? Le 5 tequila del titolo italiano, che per una volta, pur non essendo quello originale, che era E nell'ultimo trago, è comunque un titolo azzeccato che ci risuona subito Messico. Parli di tequila, ovviamente parli di Messico. Infatti è un film messicano che racconta la vita di tre amici ormai ottantenni, Emiliano, Agustino e Benito, che tutti i giorni si trovano per giocare a domino. Un giorno uno di loro, Pedro, arriva con un tovagliolino consegnato su una canzone, il testo di una canzone, e dice: questa è la canzone originale scritta proprio su questo tovagliolino da un famoso cantante, io voglio portare questo cimelio al museo di questo cantante. Perché? Perché sto per morire. E quindi tutto cambia e tutto diventa l'ultimo viaggio, ed ecco il titolo, è nell'ultimo trago, l'ultimo viaggio di questi quattro vecchietti verso questa meta, e come sempre sarà un viaggio di scoperta e riscoperta. È un film molto messicano nei tempi, nei ritmi, quasi nel calore che ti restituisce, ma è un film anche qui, come si fa ultimamente molto spesso al cinema, che sa anche ironizzare sul momento decisivo della nostra vita, ovvero la fine di essa. E quindi un film che noi possiamo tranquillamente consigliare. Tutto questo in Messico. Con l'ultimo film invece ci porti al cinema francese? Sì, assolutamente, perché più che altro vi porto in Afghanistan, anche se con gli occhi di una pattuglia di soldati francesi lì impegnati in una di queste nostre guerre contemporanee praticamente infinite. Dopo essere sopravvissuto a un attacco nel deserto afghano, un sergente francese, Denis, resta bloccato con un piede incastrato su una mina, cioè sta schiacciando una mina con il piede e, come potete immaginare, non può alzare quel piede. Il film è tutto qui, è tutto lì, quantomeno, e come dire, ci riporta in quello che sta diventando un genere, una sorta di situation movie nel quale il protagonista si trova incastrato, a volte è capitato come Buried in una bara, a volte come No Man's Land in una fossa, a volte come in Lebanon in un carro armato, ecco qui con un piede su una mina. Il film, diciamo così, ha dei problemi di verosimiglianza, visto che la vuole raccontare quasi in tempo reale, cioè il passare di un pomeriggio e di una notte fino ad arrivare all'epilogo, che ovviamente non vi sveliamo, forse indugia un po' e indulge un po' anche in questo, però tutto sommato un po' di tensione riesce a tenerla, e anche qui per gli amanti di questo genere è uno di quei film estivi che tutto sommato si possono anche guardare. Grazie Franco, l'appuntamento con te dopo il giornale radio delle 18, La Rosa Purpurea e poi ancora insieme al prossimo Sabato del Villaggio. Ciao Marta. Donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti. Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Assicom, vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Il Sabato del Villaggio. Rieccoci insieme con il sabato pomeriggio di Radio 24, il Sabato del Villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale, questa la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. Nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube, insieme a Daniele Bellasio, per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Come contattarci? I vostri SMS e WhatsApp 349 238 6666. C'è anche il mio account di Twitter, @MartaCagnola. Ma ora scopriamo i temi della seconda ora, il filo conduttore sempre i primi tormentoni d'estate. I marchi di successo insieme a Maria Luisa Pezzali, ovviamente consigli letterari per tutti da Alessandra Tedesco. Parleremo anche di moda e di tutto ciò che non può mancarci. Quest'estate ritroviamo la nostra esperta Giulia Crivelli, ma partiamo subito con il vero tormentone di questi giorni. Stiamo parlando di tormentoni dell'estate, i primi tormentoni. Sicuramente il vero tormentone di questo periodo si chiama The Floating Piers. È quell'installazione, ormai la conoscono in tutta Italia, una serie di passerelle che sono state posate sulla sponda bresciana del lago d'Iseo dal grande artista Christo. Si può passeggiare sulle acque, un'installazione temporanea perché durerà fino al 3 luglio e quindi tantissimi in questi giorni si sono recati sul lago d'Iseo per provare il brivido, l'emozione, per provare l'esperienza di passeggiare su questi The Floating Piers. Talmente tanti che si sono formate file, è successo un po' di tutto, ma per capire se si riesce ad andare, come si riesce ad andare, qual è la situazione, abbiamo in collegamento il prefetto di Brescia, il dottor Valerio Valenti. Buongiorno dottor Valenti. Buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori. Allora, intanto, dottor Valenti, la situazione com'è? Visto che lei si è trovato a gestire, probabilmente in maniera imprevista, un entusiasmo incontenibile di fronte a questa installazione. Ma la situazione diciamo che è mutevole, abbiamo momenti nei quali si arriva anche con tutti i mezzi previsti, cioè col treno, col battello, con l'auto e le navette, si arriva agilmente, agevolmente e si può quindi passeggiare per tutto il tempo che uno desidera dedicare. Altri momenti, come quello per esempio attuale, proprio in questo istante mentre noi stiamo parlando, dove la passerella è satura perché la capienza massima massima è di 10.000 persone e nel piazzale antistante abbiamo 4.000 persone in attesa e circa 3.500 alla stazione di Brescia che attendono di imbarcarsi sui treni. Quindi diciamo che la situazione non è prevedibile, bisogna armarsi di pazienza. Certo, io capisco e recepisco, accolgo anche le critiche di quanti immaginavano di arrivare e salire, diciamo, agilmente sulla passerella, ma purtroppo diciamo, un po' per le condizioni proprio oggettive del sito, quindi non facilmente come dire, è trasformabile in una grande piazza d'armi capace di ospitare migliaia e migliaia di persone, dall'altra per le mutevoli condizioni sia oggettive sia soprattutto meteorologiche che rappresentano un'incognita sempre presente, ecco, può capitare che le ore di attesa diventano numerose e che quindi diciamo, questo agognato desiderio di visitare la passerella arrivi dopo un po' di tempo, però ecco, al momento noi abbiamo sempre garantito questa possibilità, abbiamo gestito ieri ad esempio 87.000 persone a fronte delle 45.000 che erano il bacino ideale diciamo, rispetto al quale l'organizzazione non sarebbe andata in sofferenza, ma noi non siamo andati in sofferenza, abbiamo gestito questa situazione, continuiamo a gestirla ovviamente con queste varianti. E la parola che lei ha usato, pazienza, credo che sia proprio la parola chiave, ci vuole molta pazienza e bisogna soltanto saper aspettare. Dottor Valenti, lei ha parlato dei vari mezzi con cui si può arrivare all'installazione, ad Floating Piers, si può arrivare in auto, in treno, si può arrivare con il battello, anche qui non è prevedibile la scelta migliore? Guardi, la scelta migliore io non so suggerirla perché, ripeto, in questo momento se dovessi dirla statisticamente a fronte di una settimana di esposizione, il treno certamente è quello più gettonato perché quello che porta le persone direttamente proprio nella stazione antistante diciamo, l'area di ingresso nella passerella. Ma anche i battelli sono a mio avviso anche piacevoli, gradevoli da prendere anche da diverse altre piccoli paesi, penso a Iseo, penso a Sarnico sul versante bergamasco, penso a Pisogna, ci sono altri centri dai quali partono i battelli che raggiungono l'installazione. Quindi dipenderà un po' dalla capacità del visitatore di scegliere in base a quella che è l'offerta del momento qual è il mezzo migliore. Qualche giorno fa aveva fatto notizia il provvedimento della chiusura notturna, è confermato? Sì, al momento è confermato e devo dire anche che è stato un provvedimento opportuno sia perché è richiesto dall'organizzazione per poter rammendare la struttura nella parte appunto del tessuto o riparare gli eventuali danni. È anche necessario per la piccola isola di Montisola che in questi giorni si è trasformata in un centro di fortissima attrazione turistica, la quale ha necessità di essere pulita, soprattutto quindi in queste ore notturne sono necessarie per interventi di igiene pubblica, altrimenti si rischiava anche seri problemi di tipo sanitario. E quindi al momento la chiusura è confermata, ma io non escludo che da lunedì, martedì si possa ritornare ad aprire la passerella anche di notte per poterla rendere godibile e fruibile anche con la luna. Negli ultimi giorni, che meraviglia intanto la passerella con la luna, mi permetta, gli ultimi giorni saranno i prossimi perché la chiusura è prevista per il 3 luglio, nessuno ha chiesto una proroga, sarà il 3 luglio la chiusura? Guardi, chi conosce l'artista, io ho avuto questa fortuna anche di incontrarlo e di parlargli numerose volte, capisce che sono tutte proposte irricevibili. L'artista ha concepito l'opera in questo modo, un'operazione, un'installazione temporanea, ha individuato in 15 giorni il tempo massimo per l'installazione e tutta una sua diciamo, filosofia che non sarà possibile, non è stato possibile modificare di un millimetro. Certamente abbiamo provato a verificare, a sondare la sua disponibilità a cambiare i termini del contratto, chiamiamo così, ma è immodificabile. E questo posso capirlo. Le chiedo un'ultima cosa, dottor Valenti, ma lei l'ha provata la passerella, quindi? Diamine, se l'ho provata, l'ho provata sia quando era nuda che adesso che è vestita, devo dirle che ogni volta che vado personalmente trovo un'emozione diversa, vederla tutta bianca e vederla poi i giorni, proprio il primo giorno antecedente all'apertura, completamente vuota, e poi vederla così vissuta, animata da tanta gente con gli ombrelloni, con i piedi nell'acqua, con i bambini che giocano, è un'emozione ogni volta diversa, e sono molto molto felice di avere potuto ospitare nella provincia di Brescia questa grandissima performance artistica. Io ci proverò nei prossimi giorni, chissà, vi farò sapere se ci riesco, ci proverò nei prossimi giorni. Davvero grazie. Davvero grazie al prefetto di Brescia, al dottor Valerio Valenti, buon lavoro, a presto. Buono. Anche a voi, a tutti gli spettatori, una buona domenica. Siccome so già che qualcuno mi chiederà, ma che cos'era quella musica? Floating, Roberto Cacciapaglia. Noi ci risentiamo tra poco dopo una brevissima pausa e saremo ancora insieme con il Sabato del Villaggio. Il Sabato del Villaggio. E i messaggi che arrivano anche su The Floating Piers, questa installazione di Cristo sul lago di Iseo, c'è qualcuno che non è d'accordo, più che arte mi fa pensare al genere curiosità, parco di divertimenti. Sì, sono tante le posizioni su questa installazione, su quest'opera. Io appunto l'ho detto, ci proverò nei prossimi giorni e quindi non so, non mi so ancora dire che tipo di esperienza e sono molto curiosa, ma chissà. Visto che, come ci ha detto il prefetto, non ci sono delle ricette per andare sul sicuro, bisogna solo armarsi di molta, molta, molta pazienza. Però intanto avete sentito che si pensa ancora a una riapertura notturna e questo mi sembra molto curioso, molto importante, visto che pareva insomma destinato a essere ormai chiuso sempre di notte. Però solo fino al 3 luglio, lo abbiamo detto, non ci sono possibilità, diciamo, di proroga. Arrivano anche messaggi sugli youtuber, impazzisco per le Candid Day The Show, scrive un ascoltatore, altri ci chiedono interviste a youtuber. Diciamo che quello è più un argomento da RadioTube, un po' li abbiamo incontrati in questi anni e continueremo a scovare i talenti tra youtuber nel nostro RadioTube. Abbiamo dato nel Sabato del Villaggio in realtà proprio delle istruzioni dell'uso su come si fa con questo libro Professione YouTuber, di cui abbiamo parlato insieme a Enrico Pagliarini. Adesso però, a proposito dei libri, è il momento della nostra Alessandra Tedesco. Chissà cosa ci ha portato da leggere questa settimana. Questa è una vecchia canzone che si intitolava Calendar Girl. Come sentite dalle atmosfere, è veramente una cosa degli anni 60. Credo che non abbia proprio nulla a che vedere, neanche come atmosfere, con questo libro di cui stanno parlando tutti e sarei molto curiosa di leggerlo. Ma intanto sono molto curiosa di sentirne parlare da Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra. Ciao Marta. E sì, Calendar Girl è uno dei libri di cui si sta parlando di più e di cui si parlerà molto quest'estate 2016. Un libro, diciamo, soprattutto al femminile, diciamo. Beh, che piace, vedo, soprattutto alle donne. Lo vedo subito. Allora, copertina in bianco e nero e fucsia, c'è una signorina con un vestito molto fasciante. Senti, dalla copertina, vedendolo così, io direi, cos'è, un altro 50 sfumature? Ni, Nel senso che, allora, Calendar Girl è un libro in cui il sesso c'è, spesso e volentieri, mettiamola così. Sesso e volentieri. Sesso e volentieri, però non estremo come in 50 sfumature di grigio. È una tetralogia, in realtà, sono quattro libri. Adesso in Italia è uscito Calendar Girl, mese di gennaio, febbraio e marzo. Poi il 5 luglio uscirà il secondo volume, il 30 agosto il terzo, il 20 settembre l'ultimo, che comprende ottobre, novembre e dicembre. È un romanzo diviso per mesi. Perché? Perché la protagonista è una ragazza americana che deve aiutare il padre a scontare un debito altissimo, più di $1 milione. Allora, cosa fa? Per pagare questo debito viene ingaggiata come escort ogni mese da una persona diversa per 100.000 euro al mese, in modo tale che nel giro di un anno riesca appunto a sanare questo debito. Occhio però che la parola escort qui può non far capire bene, nel senso che ha un significato un po' diverso dal significato italiano, nel senso che questa ragazza cosa fa? Viene assunta da un'agenzia che la ingaggia per interpretare dei personaggi femminili accanto a uomini importanti e potenti. Per esempio, c'è uno sceneggiatore che la ingaggia come finta fidanzata per non avere rotture di scatole dalle altre. C'è un pittore francese che la ingaggia come musa. Quindi come non modella. È la storia di una prostituta, per no, dirla. Assolutamente, okay. No. C'è un ex pugile, ristoratore, gay, che la ingaggia come finta fidanzata per la famiglia perché non ha fatto coming out con la famiglia. Quindi, diciamo, nel contratto di ingaggio non è compreso il sesso. Il sesso c'è, ma avviene, come dire, indipendentemente da questo contratto di ingaggio. C'è un 25% in più se succede, però insomma, questa ragazza deve interpretare un ruolo. Quindi sono quattro romanzi. In Italia ancora è uscito il primo, Calendar Girl. In America ha avuto un successo straordinario, era stato pubblicato da una piccola casa editrice, ha venduto ben 3 milioni di copie. Cioè, una quindi cosa... è quello che vedremo su tutte le spiagge, sotto gli ombrelloni vedremo questo. Sì, vedrete Calendar Girl, pubblicato in Italia da Mondadori, Audrey Carlan. Adesso potete leggere gennaio, febbraio, marzo. Ogni mese c'è un uomo diverso. Voglio sapere se lo consigli e a chi lo consigli. Guarda, io lo consiglio a chi vuole veramente evadere, chiaramente è un romanzo molto molto leggero, lo consiglio veramente soprattutto alle donne, perché secondo me è un tipo di romanzo che incontra più il gusto femminile che quello maschile, sotto l'ombrellone per rilassarsi, divertirsi un po', insomma, come passatempo. Ok, beh, va bene così, sono contenta di parlare anche però di, non lo so, non capisco il genere. Penelope Poirot fa la cosa giusta. Poirot parente? Parente. Ah, parente, quindi cos'è, un giallo? Sì, ma è un giallo molto molto ironico, diciamo che molto umoristico, possiamo dire così. Allora, l'autrice è Becky Sharp. Ti dice niente questo nome, Becky Sharp? Non lo so, Becky Sharp. Sarà americana? No, per niente, inglese. È un'italiana, è una di Milano che usa questo pseudonimo. Becky Sharp era un personaggio di Vanity Fair, la fiera delle vanità, insomma, famoso romanzo, eccetera eccetera. Non sto parlando del settimanale, quindi sto parlando del romanzo, e lei si firma con questo pseudonimo Becky Sharp. Lei si è inventata due personaggi molto molto ironici e simpatici: Penelope Poirot, che sarebbe la pronipote di Hercule Poirot, belga, okay, non francese, ricordi? E poi la sua segretaria Velma, che è inglese però di origine italiana, parla anche l'italiano. Il romanzo è Penelope Poirot fa la cosa giusta, pubblicato da Marcos i Marcos. Brevemente, insomma, la storia. Allora, questa Penelope Poirot pensa di essere brava come il prozio, no? In realtà è molto piena di sé, civettuola, eccetera. Vive a Londra, insomma, fa la critica gastronomica ed è ingrassata particolarmente. Allora decide di andare in provincia di Siena per fare una specie di vacanza, come dire, una beauty vacanza, come possiamo chiamarla? Una vacanza, una remise in forma. Una remise in forma. Qui assume questa Velma, questa segretaria, perché chiaramente ha bisogno di una segretaria, e vanno a fare questa vacanza a Villa Onestà. Il nome dice tutto. letto. Che cosa succede? Beh, si rivela un covo di serpi, c'è un personaggio che sparisce, si trova un cadavere, lei dovrà indagare. Insomma, è un romanzo veramente molto molto umoristico, un po' british, anche se l'autrice è assolutamente italiana. Non sveliamo il suo nome, anche se non è segretissimo, però lei preferisce firmarsi come Becky Sharp. Lo consiglio a uomini e donne sicuramente appassionati del giallo, tipo alla Agatha Christie, perché tutto si svolge... Posso leggerlo anch'io, allora? No, tutto si svolge in questa sì, villa, sì, in un posto chiuso, dove insomma uno dei presenti deve essere il colpevole, ecco, quindi è il giallo classico, tradizionale, ma in realtà è anche una presa in giro dei gialli e dei personaggi, tipo delle coppie di investigatori, eccetera. Quindi questa Penelope e Velma sono un po', insomma, Sherlock Holmes al contrario. Anche questo per l'ombrellone, perfetto. Sotto un altro libro, ah vabbè, ma vedo una copertina che mi incuriosisce molto, un libro del quale abbiamo già parlato un pochino in anteprima, adesso finalmente è uscito. È uscito, sì, diciamo che è un nostro compagno di microfono, Enrico Ruggeri, tutti lo conoscono come cantante, molti gli ascoltatori di Radio 24 lo conoscono come conduttore di Il Falco il Gabbiano, ma Enrico Ruggeri è anche uno scrittore di noir. Eh sì. Il romanzo si intitola Un prezzo da pagare, pubblicato da Mondadori. È un'altra indagine del commissario Lombardo, perché già in un precedente romanzo il Ruggeri scrittore ci aveva presentato questo vicequestore aggiunto che indagava. Era La brutta estate, se non erro il titolo. Allora, è ambientato a Milano, nel mondo della musica, che chiaramente Ruggeri conosce molto bene. Viene uccisa una soubrette televisiva, tale Patrizia Calvi, anche se si tratta anche qui di uno pseudonimo. Chi sarà il colpevole? Il manager? Il fidanzato quasi abbandonato? Il fan stalker? La sorella invidiosa? Insomma, ci sono tutta una serie di personaggi che girano intorno, che fanno parte anche del mondo della musica, perché lei ha una serie di amanti nel mondo della musica. Non vi posso dire chi è il colpevole. No, non lo voglio. No, anche perché adesso stavo pensando che ho bisogno di qualche giorno di ferie, perché di tre libri mi hai parlato, tre libri voglio leggere. Mi incuriosiscono a titolo diverso tutte e tre. Ovviamente partirò col libro di Enrico. Consigli per ragazzi per quest'ultima, guarda, per quest'ultimo spicchio del sabato? Visto che avevamo preso così la scia gialla, ho deciso di proporre per i ragazzi il primo romanzo in assoluto scritto dal grandissimo giallista Giorgio Scerbanenko, giallista in realtà di origine straniera, ma insomma milanese d'adozione, inedito. Cioè, era stato Accidenti. Pubblicato, si intitola Gli uomini in grigio, Giorgio Scerbanenko, pubblicato da Rizzoli, un giallo, un poliziesco per ragazzi. Era stato pubblicato per la prima volta fra l'aprile e il novembre del 1935 su una rivista per ragazzi, Il Novellino, ed era stato scritto a puntate, non era stato mai messo, come dire, tutto insieme. Adesso è stato messo tutto insieme con la prefazione della figlia di Giorgio Scerbanenko e le illustrazioni di Peppo Bianchessi, che non c'entra niente con Daniele nostro Bianchessi. Daniele Bianchessi. Non è una delle sue molteplici incarnazioni, no? No, in questo caso non c'è uno pseudonimo. Lo consiglio, diciamo, ai ragazzi dai 10-11 anni in su, per assaggiare veramente le atmosfere noir gialle di Milano, scritto da un grande giallista che molti non sanno, appunto, ha esordito proprio scrivendo per ragazzi. Beh, piccoli lettori di gialli crescono. Quattro libri, quattro li voglio leggere tutti, e quando dove troverò il tempo non lo so. Alessandra, l'appuntamento invece con il cacciatore di libri? È sul sito internet, andate su radio24.it, pescate. Ma sì, perché va in onda il sabato alle 6:30 del mattino, se siete svegli vi do un bacio, oppure il sabato alle 22, però molto spesso viene scaricato su podcast. Perfetto per il podcast. Alessandra, al prossimo sabato. Baci. Il sabato del villaggio. E torniamo insieme con il sabato del villaggio. 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp. Chiocciola Marta Cagnola è il mio account di Twitter, anzi tra poco vi twitto la foto di tutti i libri che ci ha portato Alessandra Tedesco, perché poi mi chiedete, ah, ma come si intitolava quel libro, come si intitolava l'altro? È più pratico, ho fatto una foto dei libri che ci ha portato Alessandra, ve la twitto, così siamo a posto, io li voglio leggere tutti. Tormentoni dell'estate è il nostro filo, così, filo rosso, il nostro filo rouge di questa puntata del Sabato del Villaggio. Abbiamo parlato di tormentoni in fatto di tecnologia, in fatto di ristoranti, il tormentone dei floating piers, della passerella sul lago di Iseo che in questo momento vogliono visitare tutti, il tormentone dei libri che era questo Calendar Girl. All'inizio del nostro Sabato del Villaggio, che potete comunque recuperare via podcast al sito radio24.it, abbiamo un po' parlato di tormentoni in musica, perché è la prima cosa che ci fa venire in mente l'espressione tormentone, e abbiamo visto con il nostro ospite Gianni Sibilla come spesso il tormentone è latinoamericano. Uno dei nomi che ci vengono in mente per i tormentoni, soprattutto nell'ultimo anno, è questo artista che ci porta in atmosfera reggaeton ed è J Balvin, e continuiamo a parlare di tormentoni. Si necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. E con un altro dei brani possibili tormentoni dell'estate in questo sostanzialmente primo vero sabato d'estate, andiamo un altro tipo di tormentoni? Non lo so, nei consumi ce ne sono tanti e ne parliamo subito con Maria Luisa Pezzali. Ciao Maria Luisa. Ciao Marta, un saluto a tutti. Ebbene sì, perché cosa c'è di più tormentone delle classifiche sui brand, sulle marche? Beh, intanto perché i brand sono dei tormentoni e poi perché le classifiche sui brand sono dei tormentoni che ritornano ogni anno. Sì, esatto, perché ritornano ogni anno, poi anche durante l'anno, insomma, ce ne sono diverse a seconda delle fonti, della metodologia che viene usata per mettere in fila le marche. Sappiamo del resto come, perché vengono fatte queste classifiche, perché sappiamo come il carrello della spesa, le abitudini di acquisto raccontino molto di noi, di quello che siamo, dei nostri stili di consumo e di vita. Del resto io sul claim dimmi cosa compri e ti dirò chi sei ci ho costruita da 11 anni un programma, quindi insomma sono allineata, ecco, su questo. Dicevamo, periodicamente ne escono di nuove. Ipsos ne ha appena diffusa una che si concentra sulle marche più influenti oggi in Italia. I brand, lo sappiamo, sono in qualche modo anche lo specchio dei tempi che viviamo, e allora non ci stupisce il podio, Marta, di questa classifica, che è tutto tecnologico. Al primo posto c'è Google. Al secondo, certo, vabbè, c'è Amazon, e al terzo Facebook. Quindi podio assolutamente consolidato, poche sorprese anche rispetto ad altre classifiche che prendono in esame parametri diversi, però nella top 10 ci sono anche delle sorprese. Abbiamo commentato il tutto con Jennifer Haber, che è il CEO di Ipsos Italia. Le marche dell'ambito digital e social hanno una preminenza rilevantissima nelle top 10 e in particolare sul podio, ma corrisponde anche a una verità, nel senso che il nostro indice di Most Influential Brand parla di quanto le marche trasformano la nostra vita, hanno cambiato il nostro modo di vivere, e credo che tutti noi, se pensiamo alle nostre attività quotidiane e a quello che ogni giorno ci capita di fare per comunicare con gli altri, per chiedere informazioni, per comprare, per spostarci, per andare in vacanza, saremmo d'accordo sul fatto che queste marche hanno cambiato tantissimo il nostro modo di vivere negli ultimi anni. Voi applicate una metodologia particolare, vogliamo riassumerla? Sì, in realtà questa è una ricerca che viene condotta in 21 paesi oggi, e che in tutti questi paesi parte da un elenco di 100 brand, di cui una settantina circa sono brand globali e le altre sono brand che si rifanno più al territorio, alla realtà locale, e intervistiamo persone, consumatori nel paese. In Italia abbiamo intervistato 2000 persone sulla base di una serie di elementi prefissati. Ci sono in particolare 5 fattori che concorrono a determinare l'influenza di un brand, e sono il coinvolgimento che riescono ad attuare con i consumatori, l'affidabilità, la presenza in termini non solo di pubblicità ma di presenza nella vita quotidiana, la responsabilità sociale e l'innovazione. Quindi questi sono i cinque fattori sulla base dei quali noi valutiamo l'influenza del brand sulla nostra vita. A seguire nella top 10 anche altri brand tecnologici come Samsung, Microsoft, eBay, Apple e YouTube, ma spiccano anche Nutella al quinto posto e Parmigiano Reggiano al nono, quindi di un settore completamente diverso dalla tecnologia. A significare che cosa? A significare innanzitutto che siamo in Italia ed è bellissimo vedere delle marche che fanno parte della storia della relazione dell'italiano con il suo vissuto quotidiano che spiccano in questa classifica. Sono anche brand alimentari. Noi in Italia sicuramente se c'è un'eccellenza che il mondo ci riconosce è quella alimentare, e noi sulle nostre tavole portiamo dei brand che ci hanno accompagnato dal momento in cui abbiamo avuto modo di capire che cosa voleva dire un prodotto, un brand, siamo stati sempre lì vicino a noi, oltre ad essere estremamente buoni, e quindi questa peculiarità italiana ci fa molto piacere, il fatto che l'eccellenza italiana sia rappresentata nei top 10. Qual è il filo rosso che unisce i brand più influenti al di là appunto del settore di appartenenza? Direi che soprattutto poi se guardiamo il dettaglio e analizziamo più a livello microscopico i dati relativi all'Italia, vediamo che il dato di coinvolgimento è quello che più degli altri tende a dare un punto di forza ai brand, nel senso che oggi i consumatori quello che cercano è un rapporto, un dialogo. Si aspettano un brand che sia non solo performante in quanto funzionalità o in quanto quello che è legato proprio alla sua funzione d'uso primaria, ma che sia anche un brand che dà un senso a molti dei momenti della nostra vita, e quindi il fatto di poterci e saperci coinvolgere, saperci ascoltare oltre che parlarci è fondamentale. Beh, intanto Nutella e Parmigiano Reggiano mi sembrano la giusta base per la sopravvivenza di ogni italiano. Beh, quindi mi sembra perfetto. Sveliamo un backstage, Marta, sì, la cover, sì, del tuo telefonino. Sì, è a forma di vasetto di Nutella, ma perché è un wishful thinking, la vorrei mangiare molto di più, però mi contengo. Molto bella. Mi contengo, interessantissima questa indagine, anche perché mi ha incuriosito il fatto che noi parliamo sempre di telefonini Samsung e Apple, Samsung al quarto posto, Apple solo all'ottavo, quindi perlomeno in questa classifica non sono nei top 10, ma non così vicini. Beh, insomma, se la giocano sempre, ogni partita è a sé, diciamo così. Ebbene sì, molto interessante questa inchiesta, questo studio sulle marche più influenti in Italia, ma a questo punto, a proposito di tormentoni che ci tengono compagnia, ci tiene compagnia tutte le settimane la nostra Cristina Lazzati con una delle sue chicche, chissà qual è. Buongiorno a Cristina Lazzati. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Che chicca ci hai scovato, Cristina, per questa settimana? Allora, un po' in linea con quanto Maria Luisa ha appena presentato con la ricerca Ipsos, anche si sta parlando, soprattutto in questi giorni, moltissime ricerche vengono fatte sui consumi e sugli italiani e sulla multicanalità, cioè il fatto di comprare sempre più online, offline, eccetera, che proprio qualche giorno fa è stata presentata dal Politecnico di Milano una ricerca proprio sulla multicanalità, ed effettivamente gli italiani comprano sempre più online e offline. Anzi, la verità vera è proprio che non gliene importa nulla su quale canale sono. Dove sono comodi, comprano. Il che però va anche a dare ragione alla signora Lizzos che diceva Nutella e Parmigiano, perché c'è una ricerca fatta da Cortiglia, che ricordo a chi non gode dei servizi di Cortiglia, che è un e-commerce che nasce e si nutre proprio dal cibo del territorio, quindi frutta e verdura prevalentemente, ma anche latticini e formaggi a chilometro zero, e che è molto presente nel nord dell'Italia. Ma sa di fatto che questo sito di e-commerce che vende la tradizione dell'Italia, perché mozzarelle, salumi, broccoli, eccetera, ha fatto una ricerca sui suoi consumatori. Premettiamo che se la ricerca fatta dal Politecnico di Milano riguarda tutti gli italiani, pensate che in Italia siamo ormai 31 milioni e 500 mila di utilizzatori internet, di questi il 20,5 ha fatto almeno un acquisto online. Quindi certo. Da questo punto di vista diciamo che gli utenti di Cortiglia, è chiaro che essendo abbonati a un sito di e-commerce ovviamente sono molto più informatizzati della media degli italiani, però insomma alla fine la tradizione, la frutta e verdura, questi signori hanno detto sì, noi compriamo da Cortiglia, ci piace anche tantissimo, utilizziamo le app per l'80%, utilizzano almeno ogni giorno un'app per comunicare, tengono il telefono a portata di mano per tutti gli spostamenti, chi non usa ormai Google Maps, una volta che l'hai scoperta, certo, ti salva la vita. Sono connessi ai social network, però comunque continuano a fare la spesa in GDO, quindi chi non ha ancora l'e-commerce stia tranquillo, si deve sbrigare, ma continuano per ora ad andare a fare la spesa al supermercato, ma vanno anche dal fruttivendolo e anche dal macellaio, il 13%, perché solo il 13%? Perché i macellai sono sempre meno fondamentalmente. E quindi difficili da trovare? Brava. Il 14% va ai mercati rionali e comunali, quindi alla fine la persona che fa la spesa, che è ancora sempre di solito la donna che sceglie soprattutto la frutta e la verdura, continua a utilizzare, per cui al di là di tecnologie o non tecnologie, i soliti strumenti. Cioè, cosa vuole dalla frutta e la verdura che compra, a prescindere che la compri sul sito di Cortiglia, dove peraltro è ottima, sono una cliente, ma anche al supermercato piuttosto che dal fruttivendolo? Vuole la freschezza, e ti pareva il 97%, sì, siamo tutti d'accordo, il sapore, guarda la provenienza, la stagionalità, quindi le ciliegie a Natale sono un simpatico cadeau, però non sono richieste a tutti i costi, e ovviamente per il 62% il rapporto qualità-prezzo. Quindi se la frutta è buona sono disposto, o la verdura, a pagarlo un po' di più, altrimenti meno. E così come, giusto per concludere, da chi si fanno consigliare? Il passaparola. Certo, nell'era delle tecnologie il passaparola non è sempre comunque la zia, la mamma o l'amica, ma viaggia in rete, bravissimo, social network, ma anche blog e, come dire, pezzi di un pochino più di approfondimento. Quindi la rete si sostituisce un po', comunque amplia la ricerca sociale, quindi ancora una volta ribadiamo che i social network non tolgono nulla a chi di socialità vera vuole vivere, ma semmai aggiungono, perché magari un'informazione in più mentre si viaggia in metropolitana si può tranquillamente, o in tram, si può tranquillamente attingere al proprio telefonino per avere informazioni in più e non si può chiedere certo al vicino che sta viaggiando con noi, che è uno sconosciuto. Io sono una grande fan di recensioni, quindi capisco perfettamente questa situazione. Grazie a Cristina Lazzati per la chicca di questa settimana. Cristina, appuntamento al prossimo sabato del villaggio. Al prossimo sabato, buon pomeriggio a tutti. A te Cristina, invece l'appuntamento con Maria Luisa domani sera. Con come sempre, alle 22. Ciao Marta. A presto. Non potevamo in questa puntata in cui ci hanno tenuto compagnia i tormentoni di quest'estate non ascoltare almeno un pezzettino di questa che pochi sanno come si intitola, è This One's For You, ed è di David Guetta con la voce di Zara Larsson, ed è veramente quella che finché non finiranno gli europei di calcio ascolteremo fino alla nausea, e poi secondo me ci terrà compagnia tutta l'estate. Sono le 16.45, tra qualche istante quindi linea alla viabilità e poi ancora insieme per l'ultimo spicchio di sabato del villaggio. Il sabato del villaggio. Io mi ero persa nella nebbia e tu dalla rabbia ormai non ci vivevi più. E adesso che siamo tornati insieme, ti dico t'amo e tu non me lo dici mai. E adesso giura Adesso giura che non hai paura, che sia una fregatura dirmi amore mio. Allora, chiunque abbia più di 25-30 anni l'ha riconosciuta, questa è T'appartengo di Ambra. Ma cosa c'entra con i tormentoni estivi T'appartengo di Ambra? Allora, su Twitter in questo periodo, in queste ore, si sta, non dico che non si stia parlando d'altro, ma se ne sta parlando moltissimo. Perché l'album ha 21 anni, ma questa settimana, in questi giorni, è uscito su iTunes e sta scalando la classifica di iTunes. Sarà nostalgia degli anni 90, sarà il Non è la Rai Day di cui abbiamo parlato poco tempo fa, due settimane fa è stato festeggiato questo Non è la Rai Day con le vecchie puntate che adesso in questo periodo sui canali del digitale terrestre di Mediaset tornano. E ragazzi, niente, Ambra sta di nuovo scalando le classifiche 21 anni dopo. Effetto nostalgia, chissà, per i vecchi tormentoni che restano con noi. Ma a proposito di immancabili dell'estate, è da un po' che non ci aggiorniamo e io per prima non mi aggiorno, e quindi questo blocco è anche per me, su cosa dobbiamo avere, cosa dobbiamo indossare quest'estate. È un po' che non chiamiamo la nostra super esperta di moda Giulia Crivelli, e siccome ho bisogno anche di miei consigli personali proprio per me esplicitamente, ce l'abbiamo al telefono. Ciao Giulia. Ciao Marta. No, sei fin troppo, ti fidi fin troppo di me, anche no, perché... No, sai che tu per me sei un'autorità, Giulia, per me è assoluta autorità. Ma devo dirti che poi l'ho visto anche, insomma, quest'ultima tornata di sfilate dove in realtà si sono viste le cose della prossima primavera estate, però la tendenza è proprio un po', sì, vi diamo dei consigli, però non è più come una volta che si poteva dire cosa va di moda quest'anno. È bello, secondo me, ognuno può, insomma, può prendere quello che vuole, quello che sente più vicino a sé. Detto anche perché questo, un tempo si comprava, si stava attenti perché compravi una cosa talmente datata da poi trovarla un po' imbarazzante l'anno dopo, perché era molto di moda l'anno prima. Detto questo, però, insomma, alcune cose ci sono. Per esempio, tu hai iniziato la trasmissione con gli affascinanti Floating Piers, e c'è un marchio italiano, tra l'altro una startup italiana, mm-hmm, che si chiama LAK3, che poi se lo leggi come è scritto L4K3, da te, insomma, radio tuber, ti sounds familiar questo uso delle lettere mischiate ai numeri, e è un marchio, tra l'altro, che è nato sul lago d'Iseo, e loro hanno subito fatto un braccialetto, e questo braccialetto, tra l'altro, usa la stessa corderia che è stata usata per la passerella. Ah, quindi siamo assolutamente in topic, come si dice, siamo assolutamente nell'argomento giusto. E i braccialetti, comunque, anche quest'anno, ricorderete, insomma, 5 anni fa, questo fenomeno pazzesco dei braccialetti macramè lanciati da Cruciani e poi copiati da chiunque, e loro hanno continuato a rinnovarsi, quindi quello bellissimo, secondo me, di quest'estate, costa un pochino di più rispetto ai 5 euro iniziali, costa un pochino di più ma non tanto di più, quindi parliamo veramente di accessori accessibili, si chiama Clover Lovers, che vuol dire letteralmente gli amanti dei quadrifogli, ed è tutto in macramè, tutta una composizione di quadrifogli un pochino più spesso dell'altro, anche in questo caso in tantissimi colori, e con una chiusura in argento. E quindi, e naturalmente qui questo poi dei bracciali si inserisce anche in tutto il filone di quelli che invece sono componibili, naturalmente Pandora in testa a tutti, però insomma ognuno poi si fa il suo più particolare. E a proposito di nostalgia, oltre a Lego c'è un altro marchio che non morirà mai, continuerà a rinascere, che è Playmobil, e anche Playmobil, e li trovate anche questi su internet, basta digitare, anche sul loro sito ufficiale ci sono i braccialettini con le testoline dei personaggi più famosi dei Playmobil, quindi... Beh, senti, questo lo vado subito a vedere. Quindi ci stai dicendo piccoli accessori per insomma, non si spende tantissimo e si rinfresca l'abbigliamento. Sì, perché poi magari ne compri più di uno, li componi, un giorno li metti, un giorno no. E un po' nello stesso filone ci sono le do-it-yourself sneakers, che... Anche qui le si trova a tutti i livelli possibili e immaginabili, cioè quella, mi viene in mente quella di Gucci, che mi fa paura solo pensare al prezzo, dove tu puoi farti applicare le tue iniziali, del resto loro lo fanno anche con le borse, però ci sono anche le Vans, per esempio, altro mito degli anni 80, insomma il modello base costa meno di 50 euro, che viene venduto con un kit per dipingerle, personalizzarle, applicare le borchiette, e anzi chi vuole divertirsi un po' di più può andare su questo sito, stupendo che ho scoperto un po' di tempo fa, che si chiama allforfashiondesign.com, e ci sono tutti i consigli per personalizzare i modelli basici di Vans, di Stan Smith, delle Converse, quelle proprio basiche. Anche qui, quindi, modello super riconoscibile, però anche assolutamente unico, perché te lo sei fatto tu. Ah, quindi vedo personalizzazione e accessori, bene. E un'altra cosa che, insomma, anche perché forse per pensare un po' agli uomini, anche perché poi gli uomini sono sempre più fashion victim, e non ha niente a che vedere con il loro orientamento sessuale, per intenderci, perché questo è veramente un mito da sfatare, e ripeto, nell'ultima tornata di sfilate uomo qui a Milano l'ho notato, cioè agli uomini ormai piace tantissimo avvicinarsi alla moda e scegliere anche loro, come piace a noi donne da sempre, forse un po' di più, e quindi per esempio per loro, restando un po' in tema Barcialetti, c'è questo legame fortissimo adesso tra marchi di scarpe molto famosi e orologi. Andiamo in una fascia di prezzo altissima, ma perché sappiamo che i collezionisti di orologi complicati sono in generale gli uomini, e qui ci sono due partnership, una tra Moreschi, che è un marchio di calzature, anche su Radio 24 si è approfondito questo caso bellissimo di impresa familiare che ha appena compiuto 70 anni. Loro hanno fatto una partnership con Eberhard, che è un marchio Swiss made, fanno il bracciale, e Eberhard fa l'orologio in edizione limitata. Sul livello ancora più alto, IVC, che ha tra l'altro appena aperto un nuovo negozio a Milano, e Santoni, altro marchio di calzature super sofisticate, in questo caso puoi anche comprare la cintura uguale al tuo bracciale. Ma è ancora vero che l'uomo elegante si riconosce dalle scarpe e dall'orologio? Io credo sia verissimo, però veramente anche in questo forse bando un po' ai luoghi comuni, insomma, se vogliono mettere le scarpe più bizzarre che esistono. Io ho visto in questi giorni una cosa che andava di moda soprattutto nella scorsa stagione, cioè le scarpe con le pellicce, vere o false, ecologico o no, e ci sono ancora, che sono veramente, sono tipo degli aspirapolveri che camminano, perché tiri su qualsiasi cosa, però piacciono ancora molto. Ecco, definirle elegante forse no, però insomma sono divertenti, questo sì. Allora, siccome la moda veramente deve essere soprattutto una cosa divertente, e allora ben vengano anche quelli. Poi magari non sarà proprio il mio fidanzato l'uomo con la ciabatta di pelliccia, sì, però sì, l'uomo con la ciabatta di pelliccia non è che proprio così mi attiri sulla carta. Poi vabbè, poi tutto dipende. Senti, poi a proposito di evergreen, di nuovo le Spadrillas, perché le ho viste tantissimo in giro, vero? Di tutti i tipi, e persino UGG, che se ci pensate quel marchio scritto UGG, che è nato con una cosa all'antipodi delle Spadrillas, perché lo stivale imbottito di pelo, hanno fatto delle collezioni per l'estate che sono fantastiche, anche qui con prezzi molto contenuti. La comodità è assicurata, la freschezza, perché vogliamo mettere, insomma, le sneaker possono anche essere molto divertenti, ma se sono in pelle non sono proprio il modo più migliore per far felici i nostri piedi. Le Spadrillas invece sì, e vuoi mettere anche con gli infradito, che comunque spopolano lo stesso in tutti i modi possibili e immaginabili. Ancora consigli, Giulia? Qualche chicca che ci puoi svelare? Sì, l'ultima cosa, volevo un po' dirvi di questa tendenza che ho notato, che secondo me anche questa continuerà, che non è il vintage ma il vissuto. Cioè qualsiasi marchio casual, da Gap a Benetton, a quelli anche di livello più, insomma, di livello di prezzo più alto, ti propongono questi tessuti che appunto hanno l'aria vissuta, che non è vintage. Per ottenerla, per ottenere questi trattamenti ci sono delle tecniche complicatissime, però secondo me è tutto un po' sotto lo stesso ombrello, cioè cerchiamo di avere delle cose che sono un po' fuori dal tempo, e quindi queste magliette con questi cotoni molto, che appunto sembrano strausati, poi in realtà probabilmente resistono più di quelli che sembrano nuovi, magari con le taschine che non servono a niente, non ci puoi mettere niente nella taschina della t-shirt, però no, è tanto carina. E poi un'ultima cosa, i charms, che secondo me continueranno, perché sempre è proprio un modo per scegliere quello che ti piace di più, e questi li attacchi ovunque. I charms nel senso dei ciondoli, dei ciondoli, sì, i ciondoli li attacchi alle borse. Anche qui veramente la cosa bella è che tutti i marchi stanno cercando il loro modo, quindi se vuoi quelli più famosi, più belli, più cari, vuoi fare un piccolo investimento, vai dai supermarchi, adesso mi viene in mente Prada perché tantissimi anni che li fa, però qualsiasi marchio ormai ce li ha, voglio dire anche Carpisa ha le sue versioni, e ti puoi personalizzare la tua borsa e magari poi li fai diventare portachiavi o qualcosa del genere, e questi stessi, diciamo, applicazioni, le vedremo secondo me quest'inverno sui cappotti, sui parka, perché su questo c'è stato tantissimo. Il marchio più copiato è Mr. and Mrs. Italy, che è molto alto come posizionamento, però la logica è la stessa: troviamo dei simboli del passato e mettiamoli su un capo che è nuovo, personalizziamolo, sentiamoci proprio come ce l'abbiamo solo noi questo. Fantastico, mi piace. Personalizzazione, vissuto, libertà, insomma, ci ha dato delle belle notizie. Giulia, ti disturbiamo allora ancora, perché io ho sempre bisogno di consigli, soprattutto con per me. L'unica avvertenza, sì, veramente, poi fate quello che volete, cioè se certo. Noi diamo così delle ispirazioni. Sì, esatto. Brava. Grazie a Giulia Crivelli per essere stata con noi. Alla prossima occasione, grazie Giulia. Noi invece ci ritroviamo tra poco, adesso già vedo Annarita D'Ambrosio in regia con il copione del GR24 delle 17, ci ritroviamo tra poco perché sarà il momento della terza ora del Sabato del Villaggio, che come sapete è l'ora di RadioTube. A tra poco!